Friuli nel mondo. 162esima trasmissione dedicata agli emigrati. Villotte di ieri e di oggi. È primavera e sui monti, sui colli e nelle pianure del Friuli ferve il lavoro. L'uomo contempla le piantagioni in fiore e, fidando nella clemenza del tempo, pregusta con la mente la qualità e la quantità del raccolto. La sua anima è lieta e le sue labbra si aprono al canto. Appunto per questo noi oggi vogliamo farvi omaggio di un mazzetto di villotte ispirate alla serenità e alle cose semplici della vita. Ascoltate dunque Il Cialciumit di Giobatta Candotti, eseguito dal coro Illesberg, diretto da Lucio Cagliardi, nonché Ciantin di Cesare Augusto Seghizzi, In Cil Eie una Stele di Marzuttini e Cuoghi, e le stupende villotte popolari Cebielis Maninis e Ieri Vade la Zornade, nell'esecuzione del quartetto Stella Alpina di Cordenons. Lecca, lecca, lecca, lecca, lecca, lecca, lecca, che il puaro, che il puaro, che il puaro, che il puaro, calleci, calleci, calleci, calleci, spadielis, rocchis. Lecca, lecca, lecca, lecca, lecca, lecca, lecca, Thank you. di lamele, oh e la, la, la. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ermete Pellizzari.